87.9, quindi come annunciato andiamo ad iniziare questo redazionale questo giovedì mattina. Scusate, un secondo. Ok, questo giovedì mattina parlando di Grecia, io innanzitutto saluto i miei interlocutori che si trovano di fronte a me. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo insomma un redazionale anche un po' di racconto di questa compagna, di questa amica che è appena tornata dalla Grecia e volevamo partire un po' da una notizia che di qualche giorno fa, l'ennesimo sciopero degli statali in piazza in Grecia, uno sciopero insomma molto partecipato, questo perché comunque ovviamente in Grecia si continua a scendere in piazza, le risposte a quelle che sono le imposizioni della Troica economiche continuano ad essere molto forti. Un po' se ti va di iniziare raccontandoci proprio delle condizioni di vita, insomma, di quelle che è un massacro sociale che sta avvenendo appunto in Grecia. Sì, innanzitutto buongiorno. Sì, io sono appena tornata da Atene, dove sono stata un mese per ragioni di studio e dove tornerò tra 15 giorni per stare un altro po' di tempo. Sì, l'altro giorno c'è stato lo sciopero degli impiegati statali a seguito di una nuova ispezione da parte della Troica finanziaria. Che regolarmente, insomma, va a controllare i conti della Grecia in vista soprattutto dei nuovi finanziamenti, delle diverse tranche che sono state programmate l'anno scorso. Quindi adesso sono in attesa di questi, mi sembra, 2 miliardi e 8 e quindi hanno imposto il taglio di 25 mila impiegati statali. Sì, scioperi e manifestazioni sono ormai all'ordine del giorno da diversi anni, diciamo dal 2009, da quando la crisi ha cominciato a colpire ferocemente la Grecia e insomma, come dire, la dequalificazione della vita è evidente proprio girando per le strade. C'è sicuramente molta povertà, c'è un clima anche molto depresso per la città. Si è passati, insomma, prima si parlava qualche anno fa della famosa generazione 800 euro, no? I ragazzi soprattutto, insomma, quelli che finiscono di studiare, eccetera. Adesso, questa generazione è diventata addirittura di 500 euro, cioè per legge lo stipendio medio di un greco è di 500 euro. Quindi, insomma, significa che voglio dire c'è stato assolutamente un calo dei consumi, ma non soltanto dei consumi, come dire, diciamo in più, insomma, proprio anche di gente che non ce la fa proprio arrivare a fine mese. Adesso, ecco, per esempio, sono stata, che era il periodo, diciamo, invernale lì, anche se, insomma, è relativamente inverno. Ad Atene, visto che c'è sempre qualche grado in più, e si parlava insomma di questa questione del riscaldamento, cioè l'allarme inquinamento, perché tanta gente non ce la fa a pagare il riscaldamento, quindi sono state, come dire, c'erano proprio le spedizioni nelle foreste intorno ad Atene, gente che andava, tagliava gli alberi e bruciava praticamente insomma, la legna per riscaldare le case. Soprattutto anche perché c'è questa tassa sull'elettricità, imposta appunto sempre dal governo per fare cassa fondamentalmente, la gente non ce la fa a pagarla. È una tassa, diciamo, anche sulla proprietà, insomma. È una casta Sì, sull'elettricità e esatto. fanno pagare la tassa sugli immobili abbinandola alla All'elettricità, bolletta della luce, esatto. diciamo. E c'è anche su questo un movimento, insomma, sono nati delle reti di solidarietà, perché ovviamente chi non ce la fa a pagarla arrivano proprio gli impiegati della società elettrica che tolgono il contatore. Tanta gente non ce la fa a pagare, quindi ci sono spesso picchetti. Per bloccare, insomma, oppure movimenti, insomma, che cercano di riallacciare le utenze, insomma, quelle che erano un po' le vecchie autoriduzioni degli anni 70. E spesso anche con l'accordo, questo avviene dei sindacati dentro la società elettrica, perché ovviamente, insomma, come dire, la crisi è qualcosa che colpisce tutti, non è soltanto una questione di i ceti più bassi, ma ovviamente c'è un'intera classe media che è completamente, insomma, sofferente, assolutamente, insomma, insomma, sta scomparendo completamente. Quindi, insomma, sul clima, ripeto, è questo. Sono arrivata io, per esempio, c'era lo sciopero della metropolitana, dei trasporti, uno sciopero che c'è stato per una settimana. Voglio dire, c'è anche un problema di governo, anche ormai, di come controllare questi scioperi, visto che sono all'ordine del giorno, dichiarato incostituzionale, il governo ha mandato la polizia a spicchettare il picchetto dei lavoratori. C'è il problema, per esempio, con gli agricoltori che stanno bloccando Patrasso, stanno bloccando le autostrade perché chiedono una riduzione sul prezzo del carburante, che ovviamente, insomma, penalizza anche il lavoro, la produzione, e anche questo, insomma, spesso e volentieri sono ormai, insomma, arriva la polizia e li sgombera, insomma, siamo proprio in una fase di anticostituzionale totalmente, insomma, sono aboliti ogni tipo di diritto di sciopero, ecco. Quindi anche su questo, diciamo, il clima del movimento è anche un po' in fase calante, perché, voglio dire, sono 3 anni, che anzi quasi 4, insomma, che comunque continuano manifestazioni, scioperi, senza comunque ottenere nulla. Anche grossi movimenti di piazza, c'è stata l'occupazione proprio di Sintagma, per esempio, della piazza di Sintagma nel 2012, repressa ferocemente. Le assemblee di piazza, l'assemblea di quartiere sono state sintagma, è stata a lungo così. Diciamo che forse è proprio cambiata una fase, cioè si è esaurito un periodo in cui si è sperimentata anche l'assemblearismo di piazza sul modello dell'indignados, anche se lì non si chiamavano indignados, ha dato i suoi frutti, perché poi ha prodotto alcuni risultati, però, insomma, rispetto a quello che raccontavi tu, cioè l'incrudimento proprio dei rapporti, anche della repressione da parte dello Stato, fa verificare che con gli scioperi generali non si butta giù un governo, non gli si fa, quindi occorre ripensare, e questo credo sia cominciato da un po' di tempo in Grecia, insomma, almeno per come siamo riusciti a seguirla nei periodi passati, le lotte si vanno, diciamo, spostando sul territorio, no? Assolutamente sì, l'esperienza di Sintagma, come dire, è stato anche un segnale, no? Anche la forte repressione che c'è stata, e, come dire, lasciate, questa è la piazza del governo, del Parlamento, lasciateci lavorare, qui non ci potete stare, per cui, come dire, ormai tutti i quartieri di Atene hanno comunque la loro assemblea locale, è pieno di reti di scambio, scambiamoci i vestiti, il cibo, insomma, qualsiasi cosa. Le autoriduzioni, le autoriduzioni, esatto. Tempirono, che è questa rete di non pago, no? Dico, ma proprio dalle, come dire, dalle reti più, appunto, più specificatamente sociali, appunto, a anche ci sono tantissime banche del tempo ormai in tutta, anche perché, insomma, tanta gente è disoccupata, quindi ha anche tempo da mettere a disposizione, esatto. Per cui, voglio dire, questo ripeto, non soltanto i quartieri storici come Exarchia, per esempio, che hanno, come dire, sono sempre stati espressione anche di una cultura alternativa, ma ormai tutti i quartieri di Atene sono investiti assolutamente, perché, ripeto, la crisi è qualcosa che colpisce tutti, insomma, che sta coinvolgendo tutti, anche, per esempio, questo movimento di Sintagma, che, appunto, l'occupazione della piazza che c'è stata per 2 mesi, sgomberata, rioccupata, a più riprese, insomma, ha coinvolto anche proprio, cioè è stata anche una sorpresa per la città, nel senso che comunque non è che è stata occupata soltanto, come dire, dai movimenti più conosciuti, c'era una partecipazione, eterogenea, assolutamente. Di gente che probabilmente non era mai scesa in piazza, magari gente giovane o gente anche molto più grande, tipo 50 anni, per esempio, che da tanto tempo non scendeva in piazza, anche perché, insomma, vuol dire, appunto, gli scioperi generali, come dici te, ce ne sono stati tantissimi, e comunque ci sono stati anche degli eventi che hanno creato, insomma, ricordo, per esempio, appunto, l'incendio della banca con i tre morti dentro, insomma, certo. Non è che fosse, insomma, che la gente sia esaltata, ecco, no, insomma, no, no. Mi hanno raccontato, voglio dire, si tratta, a volte sembra un po' la mostra delle atrocità, insomma, passi per Stadio, che è questa strada centrale dove, come se passassi, insomma, dietro a Via del Corso, e vedi, insomma, ci sono 2 edifici bruciati uno accanto all'altro, mi dicono, questo l'hanno bruciato nel 2011 per il primo sciopero generale, questo nel 2012, insomma, c'è anche un clima di paura su questo, insomma, non è che sia sempre, come dire, questa esaltazione del conflitto, e anche questa questione, appunto, della della banca con i tre morti, ha creato anche un po' di discussione e dibattito dentro il movimento stesso, soprattutto dentro il movimento anarchico e alternativo, insomma, diciamo, sull'uso tra virgolette della violenza. Per cui insomma il clima è un po' questo, c'è un clima fortissimo di repressione in questo momento. Io sono tornata, ero stata a dicembre per esempio, che c'erano ancora 3 centri sociali, sono tornata a gennaio, questi 3 centri sociali non c'erano più. Questa Villa Malias, che è un centro sociale che sta un po' fuori, cioè fuori Exarchia, diciamo, spostato verso la zona nord della città. È uno dei più vecchi che... Da 23 anni, era occupato da 23 anni. È stato tentato di rioccuparlo e niente, insomma, ci sono stati arresti, insomma, la polizia è proprio arrivata sui tetti. Poi c'era questo Scaramagà anche, che diciamo più di derivazione, insomma, diciamo questi due centri sociali sono... Scaramagà finisco, sta proprio su Patission, che è praticamente la strada quasi di fronte al Politecnico. Quindi proprio al confine con Exarchia. Adesso per esempio c'è il tentativo, la minaccia di sgombro di un altro centro sociale che sta invece proprio sulla piazza di Exarchia, che è il Vox, che è un caffè, diciamo, un ex cinema all'aperto, che sta proprio sulla piazza di Exarchia, è stato occupato un annetto fa. Con lo scopo proprio di diciamo trovare fondi per spese legali, insomma, visto il clima che c'è adesso, è minacciato di sgombero. Ovviamente, insomma, c'è grande mobilitazione a Exarchia per insomma, c'è anche un grande clima di, nonostante, come dire, ognuno, diciamo, tenda comunque a specificare la propria identità, insomma, perché, come dire, anche il movimento greco è fatto anche molto di questo, però c'è grande unità, insomma, quindi nel fare fronte comune, fronte compatto, nel tentare, insomma, di impedire questi sgomberi. Io sono stata anche, ecco, quando era l'ultimo venerdì sera che ero lì, hanno tentato per esempio di rioccupare Scaramagà e immediatamente la piazza di Exarchia era circondata di polizia in assetto antisommossa ai quattro angoli della piazza, insomma. Poi era di venerdì sera, insomma, calcoliamo che Exarchia è come essere a San Lorenzo, insomma, dire, è vero, c'è tanta attività politica, ma ci sono anche tanti caffè, taverne, insomma, gente che va lì anche semplicemente per consumare, anche tanta gente, come dire, dei quartieri alti, tra virgolette, stanca, diciamo, della monotonia del proprio quartiere, arriva Exarchia perché comunque è un posto più tranquillo, un po' più cool, no? C'è gente, quindi insomma c'è veramente diversa gente. Ecco, calcoliamo una piazza, come può essere la piazza di San Lorenzo, circondata completamente dei poliziani a setta antisommossa, insomma, dire, non è successo nulla in quel momento, però sono stati lì 2 ore, come dire, c'è anche proprio un clima di... Certo, di far sentire. Sì, cioè è proprio anche la presenza fisica, certo, no? Costante, di farsi vedere. Diciamo la militarizzazione dei quartieri, delle città, che è una cosa che comunque anche noi ci viviamo molto, non sempre vuol dire che semplicemente ti vogliono reprimere, arrestare, eccetera, ma far sentire che le forze dell'ordine ci sono, che comunque anche penso nei confronti dei migranti, la Grecia c'ha... Insomma, è stata insomma, protagonista anche di grosse ondate migratorie. Sì, no, infatti, ripeto, ecco, per esempio, quella sera lì, dopo 2 ore che sono stati lì appunto a far vedere il muscolo, come dire, della legge, del governo, se ne sono andati e, insomma, nella notte hanno fermato 1000 migranti per le strade. Comunque, assolutamente, i migranti sono... come dire, il nervo scoperto della società greca in questo momento, e sono assolutamente le identità più penalizzate, perché Atene è anche una città molto polarizzata dal punto di vista delle identità, cioè Exarchia è il quartiere appunto degli anarchici alternativo, accanto c'è il quartiere Colonnachi, che è il quartiere un pochino, come dire, posh, no? degli scrittori affermati, dei politici e bla bla bla. Omonia, che è la piazza centrale, invece, come dire, una specie di discarica sociale, quando vediamo appunto le immagini di spesso appunto quello che vediamo da Atene, appunto dei tossici per strada, insomma, sono lì concentrati, come dire, a Omonia. C'è il quartiere di Agios Pantelimonas, che adesso voglio dire quello di Alba Dorata tra virgolette, nel senso che non è il quartiere di Alba Dorata, però Alba Dorata ci ha messo piede proprio per la presenza di immigrati, come dire, ha cavalcato la retorica, insomma, anti-immigrazione per, come dire, per tirare fuori, insomma, questa identità greca, la minaccia dello straniero e bla bla bla. Per cui in questa situazione Gli immigrati effettivamente sono l'unica identità transnazionale dentro la città di Atene, sono assolutamente quelli che hanno più paura. Ad Exarchia, per esempio, non ci vivono, però ci vengono perché sanno che lì stanno tranquilli, insomma. Però ecco, per esempio, questo Villa Amalias, questo centro sociale che hanno sgomberato, era proprio un posto di confine tra Exarchia, è un po' più spostato a nord, però è vicino appunto a questo Aios Pantelimonas, e quindi rappresentava anche, come dire, un baluardo, un posto di difesa anche per gli immigrati, comunque un posto, insomma, di supervisione anche di quello che succedeva intorno. Insomma, io credo che, cioè, adesso non è che amo sempre le dietrologie, eccetera, però effettivamente c'è una io credo ci sia proprio una strategia, insomma. No, ma questa è cominciata, anche questa è cominciata con l'acuirsi della crisi, in cui lo spostamento di attenzione è stato cercato non solo ad Atene, insomma, gli immigrati in Grecia erano parecchi e lavoravano anche nel settore agricolo, anche nelle zone fuori da Atene, c'era, come del resto da noi, un largo impiego di manodopera straniera a basso costo per la raccolta, che la Grecia è soprattutto poi un paese agricolo, non va dimenticato, insomma, industrie ce n'ha poche. Quindi quando c'è stata l'acuirsi della crisi, diciamo, cavallo di battaglia dei nazisti di Alba Dorata, ma anche ci ha speculato nella Democrazia, che è il partito di centrodestra, diciamo, che oggi è al governo, è tipico di scaricare la colpa sul soggetto più debole, in questo caso gli extracomunitari, e soprattutto canalizzare sugli extracomunitari i rancori della popolazione più sofferente, no? Insomma, no? Spostare nella guerra tra poveri e quindi trovare il nemico del povero ancora più povero, insomma, questo è stato proprio, diciamo, un atteggiamento voluto, cercato, che fa parte tipicamente di questi momenti di crisi e tipicamente delle strategie dei partiti di destra. Insomma, sì, la Grecia è nazionalista, se vogliamo, insomma, no? C'ha un sentimento nazionale che pervade anche i partiti di sinistra, non vengono esclusi neanche quelli. Ritirarlo fuori in questo momento significa dare la caccia allo straniero. Ne hanno espulsi tantissimi alla frontiera turca, c'è una rete con l'alta tensione, c'è una sorta di muro, insomma. Sì, ma ultimamente sono grosso. Anche moltissimi che chiedono il rimpatrio volontario. Di fronte alle botte sono stati pure uccisi da parecchi. Per esempio, ecco, quando sono arrivata io avevano ammazzato un ragazzo pakistano in un quartiere, sì, a Petralona, accoltellato per strada. Mentre c'ero io sotto casa mia, proprio la sera scendo, insomma, a Tisio, un senegalese accidentalmente caduto sotto i binari della metropolitana mentre era inseguito dalla polizia. Insomma, comunque c'è assolutamente un clima, insomma, di caccia allo straniero, ripeto, perché sono anche le identità più deboli, veramente, meno, come dire, meno protette, anche sia dal punto di vista ovviamente legislativo, perché anche le questioni sul diritto d'asilo, insomma, sono parecchio come dire, indietro, insomma. Poi è vero anche che sì, è vero che la Grecia conosce delle migrazioni da lungo periodo, però effettivamente, diciamo, la prima ondata di migrazione grossa loro l'hanno conosciuta con gli anni 90, con il crollo dei regimi comunisti, quindi la prima ondata grossa è stata, diciamo, l'Albania, che infatti ormai anche gli immigrati albanesi ormai sono di seconda generazione. Ultimamente, insomma, negli ultimi anni c'è anche una grossa immigrazione appunto dai paesi dell'est, dai paesi arabi, perché comunque dalla Turchia, insomma, sì, esatto, no, da paesi appunto che vengono dalle zone di guerra. Perché insomma dal confine, che, come dire, appunto la Grecia, l'Italia, insomma la Spagna sono le porte d'ingresso per l'Europa. E come al solito, insomma, non è che poi gli immigrati entrano per rimanere in Grecia, ovviamente è un punto di passaggio, no, però si trovano intrappolati. Una parte sono proprio rimasti in Grecia, insomma. Sì, questo... ma molti sono anche costretti, nel senso che poi io stessa ne ho incontrati diversi, insomma, ne so, chi viene dalla Tunisia, dall'Egitto, eccetera, comunque ha parenti in Francia, nelle regioni del nord, in Germania, molti vogliono andare in Germania, insomma, voglio dire, come anche nella migrazione in Italia, comunque spesso è così, cioè, si questo, arriva in questo è, il fenomeno degli ultimi tempi, però voglio dire, la comunità straniera in Grecia, insomma, era consistente in paragone come quella italiana, perché anche lì, insomma, prima di questa crisi la Grecia ha conosciuto paradossalmente anche dei momenti, è stato uno dei pochi paesi europei che in cui il PIL è cresciuto, insomma, sì, no? Sì, quindi c'è stato un effetto, un'economia drogata, esatto, proprio dopo con le Olimpiadi, eccetera, esatto, eccetera. Quindi questo ha richiamato anche un certo numero di quantità. Certo, c'era da mangiare per tutti e quindi voglio dire, quindi insomma si era stabilizzata. Poi la crisi, ripeto, tira fuori questi meccanismi dove, ecco, ma per arrivare alla destra, parlavamo della destra, insomma, ecco, questo Alba Dorada, gli ultimi sondaggi la danno al 10%. Si parla sempre più insistentemente di collusioni tra Alba Dorada e la polizia, insomma, assolutamente, no? Sì, confermo, assolutamente confermo. Che sensazione hai avuto tu di queste ultime cose? No, assolutamente c'è un clima di collusione fortissimo, insomma, è evidente. Insomma, la polizia veramente è assolutamente fuori controllo. A me è sembrata, insomma, una situazione di... Adesso appunto senza arrivare ai tentativi di golpe, adesso non lo so sinceramente, queste appunto non sono un amante delle dietrologie, però Atene è una città sotto pressione, c'è un clima tale che veramente in ogni momento hai l'impressione che possa succedere, come dire, l'irreparabile, ma magari anche per un nulla, insomma. La polizia sì, assolutamente è fuori controllo, quando c'ero io per esempio hanno... ecco, c'è stato il caso di questi quattro ragazzetti arrestati in una città vicino a Atene per una rapina in banca. Quattro ragazzetti di 20 anni. Uno, tra l'altro, era pure amico di Alexis Grigoropoulos, ragazzo che è morto, sì, è stato, a cui hanno sparato nel 2008 ad Exarchia. Figli di buona famiglia, picchiati, insomma, no, torturati. Sono stati proprio segregati per quattro giorni dentro, sì, la caserma. Sì, ma ne abbiamo parlato abbondantemente. Insomma, sono state poi, insomma, Amnesty International, pure, voglio dire, Amnesty International, voglio dire, dal punto di vista formale, ecco, per quello che può contare, comunque, insomma, parla di violazione assoluta dei diritti. Insomma, questi quattro ragazzini sono stati, voglio dire, poi figli di buone famiglie, insomma, nel senso che c'erano le famiglie mobilitate, gli avvocati. Cercavano comunque, insomma, di mettersi in contatto con loro, sono stati praticamente sequestrati per quattro giorni e dopo quattro giorni sono uscite le foto e, insomma, io quando le ho viste sono rimasta veramente scioccata perché è un clima veramente quasi cileno, insomma, ragazzini di 20 anni assolutamente, insomma, torturati, sfigurati, foto ritoccate al Photoshop e mandate, insomma, pubblicamente, per cui... Vuol dire, anche se appunto la polizia arriva comunque anche a permettersi questo, comunque lo vedi anche per strada, chiudono le strade, magari girano con le moto, insomma è sì, un po'... quelli con le moto sono i Delta, sono squadre particolari che esistono, sì, da sempre, insomma. Sì, però voglio dire, come dire, c'è un clima proprio di, ecco, sì, le perquisizioni, ho visto l'altra volta pure, perquisita una macchina, stavano veramente con le maschere, cioè una perquisizione per strada... un controllo per strada, stavano in quattro con appunto caschi, maschere antigas, pasta montagna, cinture con bombolette, insomma, vuol dire sicuramente fanno, insomma, lo vedi che c'è un clima assolutamente, e comunque questa collusione con Alba Dorada è... C'è stato un processo recentemente. C'è stato un processo, sì, è stato assolto il portavoce di Alba Dorada, che si chiama adesso, il nome è Ilias Kasidiaris, che è un ragazzotto, ecco, un giovane ragazzotto di 30 e qualche anno, insomma, è stato, che si è reso, diciamo, protagonista già durante la campagna elettorale dello scorso anno per aver insultato e malmenato proprio in TV ha tirato un bicchiere d'acqua, insomma, una esponente di Siriza e poi quella, l'altra esponente del KK Epsilon, del Partito Comunista, che era lì, si è alzata, insomma, lui l'ha presa, l'ha picchiata, insomma, per cui è stato... comunque aveva questo processo per un'aggressione a uno studente di fronte all'università e niente, praticamente la sala completamente occupata da energumeni di Alba Dorada, cioè c'era stato già comunque un po' di polemica perché il processo era stato dato in mano a un giudice monocratico. Comunque voglio dire, in un clima di intimidazione assoluta, voglio dire, proprio di arroganza, insomma, ha detto noi, tra l'altro uscendo appunto dall'aula del tribunale, ha detto noi siamo i vincitori, questa sentenza ve la sbatteremo in faccia quando saremo al governo, insomma, voglio dire, con un clima assolutamente di strafottenza e di arroganza. C'erano delle prove, voglio dire, lui era stato ritenuto responsabile perché una testimone aveva preso la targa della macchina con cui, diciamo, questi aggressori erano fuggiti, e la macchina risultava intestata a questo portavoce, a questo Casidiaris. Appunto, in sede di dibattimento di tribunale, insomma, è stata, come dire, resa non valida appunto la testimonianza, perché era stata presa da Indymedia, perché faceva riferimento a una professoressa che era legata a Syriza. Insomma, ecco, ma questo qui a te, che impressione, questo fatto che tu dicevi, massiccia presenza di nazisti al processo, quindi dei seguaci di Alba Rodada, e viceversa, diciamo, assenza di compagni complessivamente, cioè noi siamo anche abituati che in altre circostanze si cerca di impedire l'agibilità ai fascisti, insomma, in qualche modo, laddove possibile. Questo che significa che rispetto a qualche anno fa, dove viceversa non solo l'Alba Dorada non era in Parlamento, era nelle strade, si presentava, si candidava, eccetera, ma non era ancora arrivata in Parlamento, c'è un arretramento? No, assolutamente no. C'è, anzi, ogni manifestazione ormai è una manifestazione antifascista. Adesso, ecco, per esempio, quando ero io lì, ecco, c'è stata una manifestazione di Alba Dorada un pomeriggio, appunto, che finiva verso Sintagma, per appunto anche lì la retorica identitaria, nazionalista, bla bla bla, per ricordare, diciamo, un conflitto con i turchi, non per un'isola nell'Egeo, per uno scoglietto, diciamo, che si contendevano. 5.000 persone alla manifestazione. Finisce la manifestazione, un gruppo di questi con le moto, poi non lo so perché, insomma, lì c'è sto mito della moto, i fascisti, la polizia, ma anche gli anarchici, i compagni, c'erano tutti con queste moto, fanno questi cortei in moto, assaltano praticamente un posto occupato che si chiama Villa Zoografu, che è stato occupato dopo l'occupazione di Sintagma, che riunisce un po' le diverse anime, anarchici, autonomi, gente appunto di sinistra e persone, come dire, anche adesioni individuali, insomma, circondano questo posto, ne nasce ovviamente una resistenza da parte di chi sta dentro. Viene ferito uno di questi in motocicletta, si scopre che questo in motocicletta è un poliziotto che, quando dismette gli abiti da ufficiali, diventa appunto un attivista di Alba Dorada. Se ne vanno questi di Alba Dorada, arriva la polizia a circondare Villa Zoografu. Cioè, voglio dire, dal pomeriggio fino alla notte è andata avanti così. L'altra volta sono stata a un'altra manifestazione appunto per impedire, cioè appunto Alba Dorada comunque sta cercando di mettere, voglio dire, il consenso in città, soprattutto, è partito da questo Agios Pantelimonas, in cui hanno cavalcato, diciamo, questo comitato di quartiere contro la presenza di immigrati. Cioè, appunto, quando vediamo anche l'immagine in televisione di Alba Dorada che chiede i documenti ai negozianti, oppure distribuisce il cibo soltanto se hai il documento greco, fondamentalmente, diciamo, molto parte appunto da questa esperienza di questo Agios Pantelimonas, che c'è questa piazza con un giardino, con la chiesa, insomma, dove gli immigrati andavano a dormire, si rifugiavano, insomma, la notte a dormire, e come dire, sono stati proprio cacciati via. Insomma, è nata proprio insomma, il comitato di quartiere, Alba Dorada ha cavalcato, insomma, anche il disagio, no? Il declino, il degrado del quartiere, quello che dicevi tu, insomma, un po' la guerra dei poveri, e poi ovviamente anche tutta la zona un po' del Pireo, hanno per esempio anche molto... Sono molto dentro anche le squadre di calcio, soprattutto l'Olympiakos, diciamo, mi hanno detto. Olympiakos, sì, mentre il Panathinaikos mi hanno detto che ultimamente hanno preso un po' più posizioni, insomma, anche antifasciste. Comunque, sì, la questione antifascista lì è assolutamente sentitissima, perché, insomma, appunto, ci sono sempre manifestazioni. Che sia sentita e fuori discussione, perché, insomma, loro ci hanno avuto non solo una dittatura, ma ci hanno avuto anche un dominio nazista piuttosto pesante, insomma. No, ma sentitissima, nel senso che questa presenza di Alba Dorada e la paura che si espanda, che comunque è avvertita, sì, come era rispetto, diciamo, alla presenza, appunto, all'agibilità che i fascisti hanno, comprensibilmente, perché protetti dalla polizia in modo smaccato, ma la domanda era proprio se avevi avuto sentore che su questo i movimenti, data la repressione, dati gli arresti, le perquisizioni e tutto quanto, ci fosse stato una arretramento comprensibile, oggettivo, perché, insomma, poi non è che io adesso è difficile, non ci sono, insomma, è difficile, no? Anche, anche perché poi Atene magari in altri posti, sì, non, esatto, è così, uno. Poi voglio dire, io sono stata adesso e non sono stata prima, comunque sicuramente, comunque, la presenza, ripeto, del movimento in piazza c'è, sì, assolutamente. No, ma ripeto, anche se non è ho saputo pure che domenica scorsa, per esempio, hanno tentato appunto questa di nuovo di rifare appunto una cosa tipo Sintagma, via social network, che comunque appunto sono anche diverse le identità che poi producono movimento nella sì, città. Sì. Assolutamente, cioè, c'è sicuramente questa cosa che è anche molto delocalizzato ormai, ripeto, cioè il lavoro è quotidiano, il lavoro è capillare in tutte le zone. Senti, rispetto viceversa ai partiti di sinistra, qual è secondo te le ultime sensazioni, il feeling che sia Syriza e il KKE? Il KKE insomma è ormai ha dimezzato i voti, dimezzato, ma sì. C'ha no, ripensamenti sì. O no? Guarda, adesso ti posso dirti soltanto come dire il sentore appunto da parte del movimento, tutti guardano a Syriza con interesse, tutti guardano a Syriza. Syriza è anche l'anarchico più integralista, ti dice, non ti dirà mai che lo vota, ma sicuramente lo vota. E anche per esempio questo Vox di cui parlavo prima, questo centro sociale che è in Piazza Exarchia, insomma sono appunto gli anarchici integralisti, duri e puri eccetera, però ecco poi Syriza ha dato l'appoggio contro lo sgombero, ovviamente non è che hanno detto ah no, noi con Syriza, con i partiti. Ovviamente l'hanno presa. E anche Syriza, per esempio, è anche molto impegnata. Sono stata una notte manifestazione contro l'apertura di una sede di Alba Dorata in Alexandria, insomma, sempre una zona un po' più limitrofa. Syriza era in testa contro l'apertura di una sede di Alba Dorata e Syriza era in testa. Certo, poi, comunque sono sempre messi un po' alle strette, nel senso che come succede qualcosa, ecco, l'opinione pubblica, i media, anche su questa questione della violenza, no? Cercano quasi di intrappolarli. Allora voi, per esempio, i quattro ragazzi appunto della banca, allora voi come vi ponete nei confronti di questi quattro ragazzi? Cioè c'è sempre questo clima di criminalizzazione, appunto, allora ecco voi di, come dire, di additarli, appunto, allora voi difendete i violenti. Però poi insomma è una trappola questa, dalla quale insomma si smarcano anche abbastanza bene, perché poi ripeto, il clima di violenza non è solo, cioè il clima di violenza è generalizzato ormai, cioè c'è una situazione veramente, ripeto, che per nulla potrebbe succedere di tutto, insomma. Però ripeto, l'interesse, la fiducia in Syriza assolutamente io l'ho percepita come qualcosa di... Ipotesi di nuove elezioni? Se ne parla, non se ne parla? Secondo me non credo. È molto difficile. Secondo me finché non si chiude questa partita del rifinanziamento, per il momento insomma c'è da aspettare. E comunque insomma Syriza è assolutamente votata come uno dei possibili, anche l'ultima elezione insomma ha preso, sì, sì, è arrivata 26, a un passo diciamo da sì. Nuova Democrazia, esatto. Senti, l'ultima domanda ed è se un aggiornamento, lo ripetiamo, questa questione di Salonicco, dell'isola Calcidica e di quello che è successo insomma ultimamente in questa notav contro questa notav greca. Sì, c'è questa miniera d'oro di cui appunto questa regione, questa penisola è ricca e diciamo la verità, lì ce n'è pochissimo. Concentrazioni, no, perché questo è l'imbroglio, tra l'altro. Vabbè. Insomma, da quello la concentrazione, no, ma queste sono le bugie che dicono, la concentrazione di minerale aurifero è bassissima. È fra le più basse che ci sta. Il problema è un altro, è che con la crisi mondiale l'oro è andato alle stelle, per cui non solo in Grecia, anche quel pezzettino sono state rimesse in funzione miniere, ma questo è successo in Bolivia, è successo in miniere abbandonate proprio da tempo, perché oggi con gli altissimi prezzi dell'oro conviene estrarlo anche lì. Questa è una concessione che ci avevano da 20 anni, la Canadian Mining eccetera, è una concessione che c'era da 20 anni. Ha ripreso lo sfruttamento adesso, perché adesso il prezzo dell'oro è andato alle stelle, ma se no come concentrazione è bassissima. La miniera lì hanno estratto oro da 2000 anni, insomma, no? Non è una miniera di oggi, è una miniera che i greci le estraevano l'oro dai tempi appunto di Pericle, insomma, sì, per no, capirci. Sicuramente quindi, c'è. Adesso quindi appunto, non era più. Diciamo che è nato anche, come dire, ormai una svendita totale del territorio, insomma, anche della città. Su questo, che ne so, anche le ultime isole che si è acchiappato lo sceicco, insomma, voglio dire, anche per fare cassa, insomma, ormai si venderebbero tutto. Insomma, ma lì cassa non ne fanno, perché come sai la Hellenic Gold prende già lo 0,5%. No, ma poi è di. il proprietario è una società canadese lì, mi appunto, sembra. No, dicendo, la concessione è data a una società mista canadese, che è quella grossa. E il magnate greco. E il magnate greco, solo che il magnate greco c'ha il 5% e quelle, la canadese c'ha il 95%, quindi non fai manco, lo Stato non fa proprio cassa, insomma, in nessun senso. Ecco. Sì, ripeto, sulla svendita del territorio, insomma, fa cassa su quello, non tanto sulla produzione, ma ormai voglio dire, ecco, anche, so, leggevo l'altro giorno, anche le multinazionali che vogliono tornare comunque in Grecia, perché ovviamente c'è un costo del lavoro bassissimo, insomma, la Hewlett Packard, come si chiama, che vuol far diventare, per esempio, il Pireo, il nuovo hub europeo, insomma, e anche le multinazionali stesse fanno pressione sull'abbassamento ulteriore del costo del lavoro, insomma, come dire. Sì, sì, nostra... questo è il vabbè, carattere... comunque, tornando alla miniera d'oro, ce ne sia o non ci sia, comunque, vuol dire, sì, è la Notav greca, nel senso che appunto lì c'è una questione sul territorio, perché ci sono delle, diciamo, la contesa è su questa foresta, che appunto sotto ci sono delle falde acquifere, quindi voglio dire la popolazione, i comitati di locali, insomma, si sono mobilitati contro la deforestazione, contro soprattutto il bucare la montagna, insomma, più o meno come la TAV, e contro appunto i pericoli di inquinamento, e anche lì, come dire, c'è un clima di repressione fortissimo. Di repressione, ma anche, come dire, di militanza fortissima, perché appunto quando sono entrati nei cantieri distruggendo, dando a fuoco, poi c'è questa passione per il fuoco in Grecia che è veramente qualcosa. Vabbè, ma è storico, insomma. Sì, è storico, insomma, sono i fanatici del cherosene in assoluto, insomma. Però voglio dire, di contro, ecco, hanno fermato l'altra volta, insomma, dei ragazzini di 15 anni, insomma, perché voglio dire, ci sono i comitati di quartiere, come possono essere appunto i paesini nella Val di Susa, insomma, vuol dire, gente anche non abituata a un certo tipo di conflitto e di repressione a questo livello, insomma. Beh, ragazzini a cui prendono anche proprio il DNA, insomma, voglio dire, ci sono anche un clima proprio di tracciabilità proprio, no? Sì, esatto, hanno portato parecchia gente in questura, diciamo così, e gli hanno imposto l'esame del DNA dopo questa azione notturna in cui erano entrati nel cantiere. Un certo numero di persone col volto coperto avevano dato fuoco al cantiere dopo aver immobilizzato i guardiani. Questa cosa nella popolazione, diciamo, non è che è stata contestata, ma non si capisce, appunto, ancora non si è in grado, comprensibilmente pure, insomma, non è che nessuno l'ha rivendicata, per cui a chi è attribuibile sicuramente è un'azione che viene contro la miniera, non è da fare ipotesi strumentali, se la sono fatta da solo, no, sicuramente non è questo, però ha provocato nella popolazione, per opera del comportamento della polizia, insomma, delle grosse difficoltà, perché non solo hanno portato la gente in questura per l'esame del DNA sperando di risalire a chi, perché alcuni passamontagna erano stati trovati, insomma, quindi il sudore, queste cose da telefilm americano, insomma, no? Ma poi 3-4 giorni fa c'è stato proprio un villaggio che è stato, sì, letteralmente circondato dalla, sì, polizia, insomma, sembrava una scena di guerra, sì, degli anni 40. Ma non 40, solo, hanno praticamente assaltato, sì, una, sì, scuola. Hanno una assaltato scuola, la scuola, hanno gasificato tutta. Hanno tirato gas lacrimogeni, poi insomma appunto anche questi gas lacrimogeni che lì sono armi chimiche ormai, insomma, sì, dire, cioè il laboratorio. Insomma, l'hanno denunciato da parecchio i compagni. Insomma, gente che è svenuta, ragazzini con insegnanti svenuti dentro la scuola, e la polizia ha impedito anche l'arrivo dei dottori con le famiglie fuori, insomma, voglio dire, stiamo veramente in un clima di, insomma, se non dico guerra civile, insomma, però insomma, lo scenario non si discosta molto, insomma, per cui non lo so, insomma, a volte c'è veramente da aver paura, insomma, ripeto, è l'imprevedibilità, c'è questo fattore che in qualsiasi momento, proprio perché soprattutto il comportamento della polizia, sono saltate qualsiasi regole democratiche, cioè qua facciamo noi, decidiamo noi, comandiamo noi, lasciateci lavorare. Più o meno il clima è questo. Comunque, sì, la questione appunto della miniera va avanti ormai da un bel po' di tempo. Salonicco anche è una città molto interessante per quello che è sempre stata per quanto riguarda sì, il c'è movimento. C'è stata questa occupazione di questa fabbrica, l'abbiamo esatto, sentito infatti esatto, una quindicina esatto. di giorni fa. Questo per dire appunto la doppia faccia anche un po' no, della crisi, cioè c'è il clima depressivo e c'è anche tanta repressione, contemporaneamente però come dire c'è anche una società civile che si mobilita, che ha voglia comunque di auto-organizzarsi, di fare, di mettere insieme risorse, energie. Devo dire che cioè, è una, per esempio Atene è ancora una città dove si parla molto di politica, insomma. Sì, sì. Ai greci piace parlare sì, di politica. Sì, però dico sicuramente ecco, anche questo clima di crisi, perché fino, a, come dire, fino al 2009 comunque appunto hanno avuto un aumento esponenziale del PIL. Gente che comunque appunto poteva permettersi un po' di tutto, la seconda casa, quello, quell'altro, i beni di lusso tra virgolette, e adesso insomma si trova come dire a fare i conti appunto con l'essenzialità anche della vita quotidiana, per cui devo dire questo insomma un po' la doppia faccia. Adesso vediamo appunto in che svolta si troverà il movimento. Allora, l'ultima domanda che riguarda un po' più un aspetto invece internazionale europeo. Cioè, mi sono sempre chiesta perché in qualche maniera la lotta in Grecia, che ormai va avanti da diverso tempo, non avesse visto forme di solidarietà, per esempio dai compagni e le compagne in Italia, penso in Spagna, forse la Spagna addirittura un po' di più nel darsi appuntamenti contemporaneamente, anni fa appunto sulla questione degli indignados, eccetera. Pensi che in questo ci sia una chiusura da parte della Grecia, del movimento in Grecia, oppure un non ascolto da parte del resto d'Europa? Ma guarda, un po' pure qui, insomma, non è né bianco né 50 sfumature di grigio, come dire. Nel senso che come dire, il movimento greco è un movimento molto molto identitario, per cui anche tra di loro a volte è difficile trovare delle connessioni, insomma, magari anche Exarchia stanno a 15 metri di distanza l'uno dall'altro, però capito, no, io sono Alfa, io sono Alfa K, insomma ci tengono, e a volte anche come dire le connessioni avvengono poi a livello individuale, cioè gente che abita lì, insomma, che frequenta un posto, poi ne frequenta anche un altro, e ovviamente con questo clima di repressione anche insomma si sono anche un po' più uniti. Io a volte per esempio insomma mi fa un po', mi sembra come se il movimento no global non sia mai passato insomma da quelle parti, insomma anche un modo di stare in piazza, insomma, eppure voglio dire anche molte dei militanti insomma del movimento odierno, insomma sono gente che comunque sta a tutti i vertici internazionali, insomma ha sperimentato anche altre forme insomma che non siano appunto quelle come dire un po' più tradizionaliste, ecco. E, d'altra parte c'è un clima particolare in Grecia. Io per esempio, ecco, c'è stato al Politecnico proprio mentre ero io, c'è stato un convegno di 3 giorni molto interessante. La cosa particolare che mi ha fatto è paradossale, perché c'è stato questo incontro al Politecnico organizzato da questo gruppo di ricerca che si chiama Encounters Athens, che è tutto un gruppo di precari, perché lì poi insomma c'è anche una grossa, cioè pieno di gente che parla 3 lingue, dottorati, master, insomma c'è stato anche molto investimento, come dire, sulla cultura e sull'educazione. E, 3 giorni di movimenti da cui tra la Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, sui regimi della crisi e i movimenti sociali. Tra l'altro anche c'era il Metropolis di Roma, insomma c'era un sacco di gente anche italiana, gente anche dai Notav, insomma. 3 giorni in inglese, insomma, quindi tutti costretti l'unico appunto il paese della crisi che riesce a trovare dei fondi per finanziare insomma questo convegno. E effettivamente insomma c'è nessun paese come la Grecia insomma è a rischio così di fascismo, di razzismo, nonostante insomma la crisi sia pesante anche in Spagna, in Italia, in Portogallo, diciamo il sud dell'Europa. Anche se poi ovviamente insomma in termini quantitativi il sud Europa effettivamente è più penalizzato, però la crisi c'è anche in Germania, in Francia, in Olanda, insomma dire non è che lì non ci siano i precari. Però diciamo che nei paesi dell'est insomma anche questa questione del fascismo sta prendendo insomma piede. Nei paesi, dici? Alcuni paesi dell'est. Sì, no, io mi riferisco più all'area mediterranea, diciamo. Sì, a cui... anche se la Grecia, insomma, fa parte. Sì, la Grecia sono gli Easy Rider dei Balcani, insomma, loro lo dicono, sono considerati un po' gli americani dei Balcani, ovviamente, insomma, è una città più, anche Atene, è una città più medio orientale, insomma, che europea, la vedi anche proprio come è fatta, non ci sono i grandi boulevard, le grandi stradine, cioè, tutta un incastro, insomma, i quartieri sono un po' incastrati, e anche appunto il clima un po' confusionario e caotico che c'è, insomma, ti ricorda un pochino più la parte est che la parte nordica o comunque anche... però, insomma, sì, un po' l'impressione che, insomma, anche lì, da quello che è uscito fuori, insomma, che effettivamente anche questo clima così pesante, probabilmente anche per la storia greca, anche se poi pure la Spagna, insomma, non è che sia uscita molto tempo fa, insomma, da una dittatura. Se parliamo di colpi di Stato fascisti, insomma, io credo che metteremmo fuori strada un po' tutti, anche noi stessi. Credo che non sono questi all'ordine del giorno proprio. No, infatti. E qui si tratta di capire, è una gestione proprio, se vogliamo dire, del capitale, certamente con un uso preponderante della forza, con imposizioni legislative accompagnate dal bastone poliziesco, insomma, ma sempre nell'ambito di quelle che sono le regole, non voglio dire democratiche perché sarebbe improprio, però non bisogna dimenticare che stanno tutti dentro l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea comunque non potrebbe tollerare. Poi l'Unione Europea gli manda la polizia, non so se hai avuto modo di vederla, sì, magari la polizia europea è un corpo di polizia che sta a Atene, insomma, in Grecia c'è sta da quasi 3 anni ormai, è stato il primo impiego, questa gendarmeria europea che è stata costituita, e quindi, insomma. Però, ecco, non credo, diverso il discorso dell'Ungheria, di questi paesi, dove lì vedi un fascismo di Stato perché l'andata al potere di certi partiti di destra, insomma, conservatori, ha formulato proprio leggi particolari. Ma qui sono comportamenti, per esempio, sono comportamenti razzisti, non siamo ancora a livello di... proporre nei parlamenti né greco né spagnolo né italiano, diciamo, provvedimenti legislativi, per esempio, di carattere razzista o sessista, dichiaratamente sessista o fascista, insomma. Ci sono dei comportamenti, questo sì, della polizia, ecco, il tratto unificante è che il comando è diciamo, esercitato sia in via legislativa, per esempio, come ricordavi, l'abbassamento del salario minimo in Grecia, la riduzione dei salari, degli stipendi degli impiegati statali e così via, e laddove c'è uso largo e forte della repressione poliziesca, insomma, ecco, questo sì. Sì, vanno. Però, per esempio, i militari in Grecia al momento, insomma, hanno fatto anche dichiarazioni, no? Pezzi, hanno firmato anche degli impegni a non recentemente, gli è stato chiesto di firmare, e loro hanno firmato, per quello che vuol dire un pezzo di carta, per carità, degli impegni a non intromettersi nella situazione politica, perché lì il vero pericolo, il colpo di Stato, lo fece i colonnelli in Grecia, certo, lo fece certo. Le forze di polizia. Ecco, certo, questo certo. Per dire agli ascoltati, a chi ci ascolta, insomma, che... il problema è questo, cioè è un problema di crisi al punto tale che viene gestita. Qualsiasi partito si trovasse al governo, io immagino anche Siriza avrebbe dei grossi problemi, perché comunque una intolleranza di piazza, un'intolleranza sociale alla crisi, non è che riesce a sedarla solo perché tu ti chiami Siriza, vai al governo e chissà quali grandi provvedimenti subito riesci a fare. Magari è una situazione tale per cui la gestione di piazza diventa un problema per tutti. Ovviamente i partiti di destra lo fanno con più nonchalance, con più naturalezza rispetto ad altri, insomma, anzi con più convinzione, direi. Però credo che tutti avrebbero un problema oggi in Grecia, così come in altri posti, a gestire la piazza, perché, come dicevi te, il livello di violenza è diffuso. Sì, no, c'è una forte turbolenza, come esatto, dire. Insomma, comunque è la grande questione dell'Europa, secondo me, in questo momento. Cioè, voglio dire, ci sono i governi, e quanto contano i governi di fronte poi invece agli organismi economici internazionali, e questa è la vera questione. È così. Per questo la Grecia anche in questo momento, come dire, diventa anche cartina di tornasole anche della tenuta, insomma, di un'unione fondata appunto più sullo spread, sull'austerity e sui mercati finanziari che su la politica, insomma. Per cui ripeto, anche il comportamento della polizia, voglio dire, tra virgolette, adesso non voglio, però sono lasciati soli, tra virgolette, anche a gestire, perché la politica è inesistente. No, no, infatti, cioè, stanno non, nel palazzo. La gestione a decidere... è demandata alla piazza, per il manganello, esatto, proprio. Esatto, insomma, esatto, sì. Esatto. Anche come sta avvenendo qua, insomma, eh sì, in Italia, anche qua ne abbiamo dei sintomi precisi. Esatto. Abbiamo visto l'ultima così, manifestazione anche degli studenti, quella del 14 certo, novembre, certo. Insomma. La stessa cosa, non c'è più la mediazione politica, perché la politica ormai è asservita, insomma... E poi non ha più chance, ha esaurito, esatto, quelle poche cose, cioè, che ancora poteva fare. I parlamenti sono eletti, insomma. Ma effettivamente poi chi detta le regole sono i mercati finanziari, la Troica, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, la Banca Europea, l'Unione Europea, che insomma... Non si capisce che entità, insomma, sia. Per cui, per quello dico anche la Grecia in questo momento. Però, ecco, ripeto, riferendomi a quel convegno di cui facevo menzione, insomma, siamo tutti nella stessa barca. Certo, però, appunto, certo. La Grecia sicuramente mostra una complessità e delle criticità, appunto, dal punto di vista dei comportamenti. Sì, anch'io, appunto, arrivando a dico, il gol, effettivamente, insomma, non lo so, nel senso che, ripeto, queste dietrologie... Poi può succedere di tutto, vista l'ingovernabilità, dipenderà anche poi da quello che, insomma, dal clima di, anche se insomma adesso il clima, diciamo, di scontro mi sembra più calato rispetto a qualche tempo fa, insomma. Vediamo che cosa, però assolutamente è un osservatorio, è un laboratorio. Sì, bisogna seguirlo, perché potrebbe essere uno dei futuri che ci aspetta anche a noi. Sì, uno dei, non sì, il solo. Io insomma. Sinceramente quando lo sento così, appunto anche durante le lezioni, no? Ah, faremo la fine della Grecia. A parte, voglio dire, da qui a fare la fine della Grecia. Vabbè, ce quello ne è terrore puro che sì, seminano. Però, insomma, andate in Grecia, anche chi dice queste cose, anche lo stesso Grillo, andasse in Grecia e vedesse che cosa sta succedendo lì, certo. Perché. Da qui a prefigurare uno scenario del genere, insomma, ancora ce ne vuole. Noi se penso che siamo soltanto all'inizio. Però il problema, ripeto, la questione greca è importante proprio per la tenuta democratica, punto interrogativo, dell'Europa, insomma, del futuro che potrà avere l'Europa, insomma. Va bene. Io penso che possiamo chiuderla qui. Sì. È stata... interessante questo aggiornamento che abbiamo fatto con Monia. Ne riparleremo, magari sicuramente ne riparleremo, ci risentiremo, in insomma, cosa, la primavera, anche perché adesso sarà un momento anche di verifica, so che stanno uscendo anche i nuovi dati, ecco, delle agenzie del commercio, ecco, per esempio una cosa che mi ha colpito molto anche di Atene è che pieno di cartelli affitta, si vende, si affitta. Sì, beh, si... negozi che ma chiudono, le strade del centro, tutto. Sì, sì, sì, sì, no, le strade sono corso, buie, sì, questo l'abbiamo visto, insomma, nell'arco già nel passaggio tra un anno e l'altro si avvertiva questa cosa, ovviamente non può che andare giù, fino a quando appunto gli stipendi e le opportunità di investimento non saranno paragonabili, che ne so, a paesi, si dice sempre la Cina, ma ormai la Cina è anche salita come reddito pro capite, insomma ci sono stati miglioramenti, quindi possiamo tranquillamente dire che, se non so gli stipendi greci, però la tendenza è quella di abbassare dappertutto il costo del lavoro, perché solo a queste condizioni potrebbe ripartire la macchina, esatto, dell'accumulazione, dei consumi, no? È un, ripeto, un paese in vendita, insomma, sì, su sì, questo certamente. C'è questo tentativo assolutamente di svendere, lo vedi anche proprio visivamente dai cartelli che vedi sui negozi, insomma, un continuo affitta, si vendita, insomma, vediamo cosa succederà, ne riparleremo. Va bene, e allora salutiamo ascoltatori e ascoltatrici. Infatti.